Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Tra le tante frasi celebri attribuite ad Einstein ce n'è una che riguarda le api e recita: se l'ape scomparisse dalla faccia della Terra, l'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Si può essere certi che l'attribuzione sia falsa e d'altronde Einstein non era tipo da sparare numeri a caso. La frase però rende, anche se con un eccesso diciamo di dramma, l'importanza delle api per l'ecosistema. Le api e le loro parenti strette infatti impollinano tra il 70 e l'80% delle specie vegetali. E la riproduzione di molte di queste poi è affidata a un solo insetto, la cui scomparsa quindi significherebbe l'estinzione di tutte le specie vegetali collegate, che a sua volta avrebbe effetti a cascata drammatici per l'ecosistema. Purtroppo da circa un decennio si susseguono grandi improvvise morie di api ancora non del tutto spiegate, ma certamente legate all'inquinamento, dato che questi insetti sono molto sensibili agli inquinanti e ai pesticidi che prelevano insieme al polline da tutto il territorio circostante. Si capisce che studiare questo fenomeno e contrastarlo è estremamente importante. Stasera allora parliamo di una idea, di un progetto alla base di una startup nata in Trentino, dove la tradizione dell'apicoltura è forte. Diamo subito il benvenuto ad Andrea Rosani. Buonasera Rosani. Buonasera, buonasera. Cofondatore di Melixa, che ha sviluppato un sistema di monitoraggio innovativo in grado di tenere sotto controllo il via vai di insetti e altri parametri importanti per capire lo stato di salute di questi affascinanti superorganismi che sono gli alveari. Allora Rosani, intanto brevemente, quanto è esteso questo fenomeno della moria delle api? Purtroppo il fenomeno interessa un po' tutto il mondo. Le api sono in diminuzione, diminuiscono in tutte le zone del mondo, stanno diminuendo anche qui in Trentino, che è una zona che naturalisticamente parlando è molto ricca, e purtroppo non sono più presenti allo stato naturale. Sostanzialmente le api in Trentino sono gestite da apicoltori o biste professionisti. L'ape domestica, al punto che le api sono considerate oggi specie a rischio di estinzione. Esattamente, esattamente. Purtroppo l'ape è nella lista degli animali a rischio di estinzione, e questo lo dice il presidente della World Biodiversity Association, che è il dottor Fontana, che collabora con la nostra startup attraverso la Fondazione Marche di Trento. Che cosa succede a un alveare che va incontro a questo destino, a questa moria? Purtroppo l'alveare sostanzialmente va a diminuire gradualmente la sua popolazione fino a che questa si estingue. Noi sappiamo che all'interno di un normale apiario ci sono circa 100.000 insetti. Chiaramente una valutazione visiva della moria a colpi di 5-10.000 insetti è un qualcosa che è abbastanza difficile. Al giorno, vero? Al giorno. Esattamente, esattamente. E quindi l'apicoltore ha difficoltà a verificare visivamente questo processo, e gli è utile uno strumento che gli permetta invece vedere direttamente. Certo, quando se ne accorge l'alveare ormai è per metà vuoto, a questo punto non è più in grado di riprendersi, proprio come un organismo, no? In cui metà degli organi ormai sono andati in default. Ecco, e anche sulle cause si capisce poco, per cui voi appunto avete sviluppato questo sistema per monitorare gli alveari e la loro attività. Tanto per cominciare, contate le api, come fate? Esattamente, contiamo le api, lo facciamo attraverso un sensore innovativo che stiamo brevettando. Il sensore si basa su un principio di passaggio di carica con il quale noi riusciamo a capire se l'ape sta entrando o uscendo dall'alveare, e in questa maniera a fine giornata siamo capaci di dire quante api sono tornate a casa rispetto a quelle che sono uscite per bottinare. Gli date proprio una piccola carica elettrica, come quando per esempio strofiniamo una mano, no, su un tavolo, non ce ne accorgiamo ma la mano si carica leggermente. Voi misurate questa carica, no, all'ingresso e all'uscita, riuscite a capire quindi che cosa accade. Ecco. Esattamente. E poi misurate anche degli altri parametri. Esatto, sì, noi misuriamo altri parametri, i parametri ambientali quali la temperatura interna ed esterna dell'arnia, la presenza di pioggia, e infine monitoriamo anche il peso dell'alveare, che ci dà informazione su qual è lo stato della produzione del miele e degli altri prodotti. Ecco, quindi complessivamente si capisce come sta andando questa comunità di insetti, e queste informazioni a chi poi le rendete e come anche? Noi trasferiamo questi dati che acquisiamo su campo attraverso una connessione GPRS ad un nostro server ospitato nel cloud di Microsoft Azure, con il quale l'apicoltore può consultare in tempo reale i dati relativi al proprio apiario attraverso una web application. Ecco, quindi questa cosa è rivolta a chi? È rivolta intanto al mondo della ricerca? ma è anche rivolta al mercato del business, agli agricoltori professionisti e anche agli agricoltori hobbisti che possono così controllare in tempo reale dove stanno come stanno le proprie colonie. Me li vedo più gli hobbisti, devo dire la verità, perché saranno dei fanatici, no? Immagino, come tutti quelli che fanno queste cose per il piacere di farle. Esatto, per gli hobbisti chiaramente la piaria è il loro piccolo tesoro, ci tengono molto e quindi anche un controllo continuo è un qualcosa che sono proni a è divertente, a diciamolo così, esatto. Diciamo così, è divertente. Grazie Andrea Rosani. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.